disperata. Ecco Asteria, fa tosto, avverte Bajazette che forse ignora ancora qual sia la figlia. Obbedirò, ma ti sovvenga presto, che follia per amor tradir se stessa.